Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oscar, sono le 8:20, hanno appena dato dell'abortista di... di merda, devo dirlo, perché non c'era un modo più educato. No, perché ho raccontato di questo ospedale di Iseo dove non si applica non una si legge dello Stato, e quindi io sono l'abortista. Fanatico, ma non è detto. Questo è un tema su cui se uno chiede che venga rispettato fanatico il diritto presso la legge, passa per infatti in un paese di farabutti e manigoldi capisco che chiedere il rispetto della legge può apparire fanatismo, questo sicuramente. Sono un fanatico, se è rispettare una norma dello Stato, sono un fanatico delle leggi. Secondo me, anzi, vai sorvegliato, potenziale terrorista, sei un fanatico, se ti sei radicalizzato, non si sa mai, può essere che hai cominciato con l'oratorio salesiano, ma non si sa mai, poi, capito? Amico di San Domenico Savio. Queste sono cose San pericolose. Domenico Savio, cantavamo così nei riti. Ma sono le esperienze del radicalismo nelle madrasse? No, sto scherzando. Non mi permetterei mai, essendo quello anche il luogo in cui mia madre ha mandato me, con scarsissimi risultati, visto che poi cantavi altre canzoncine. Risultati, però, ciò malgrado, ribadisco, nel mio quartiere o si andava all'oratorio Agnelli, o altrimenti i campi di basket, sia pure non preparati, quindi quando si cadeva si sbucciava tutto, e quelli di calcetto, quello di calcio anche grande, e oso dire anche i miei primi colpi di stecca a biliardo e del calcio balilla, non c'erano da nessun'altra parte, non è che ci fossero i centri pubblici, certo. C'erano loro, cioè i salesiani, che li mettevano a disposizione e tentavano anche di vigilare su il disagio sociale che c'era, perché anche lì c'era anche una certa violenza all'epoca, la cui radice era proprio il fatto che avevamo l'immigrazione, all'epoca ce l'avevamo ancora in Italia, perché è vero che a Torino c'era un problema enorme, quello che riguardava, insomma, non si affitta agli immigrati del sud, era all'epoca, ma era davvero così, adesso sembra che a ricordarlo siamo passati 150 anni, ma invece no, ecco, o chissà, forse 150 anni non lo sapevo, va bene, rapidissimamente. Oggi è una grandissima santa, Santa Caterina di Svezia. Santa Caterina di Svezia è la figlia di Santa Brigida di Svezia, santa anche entrambe, dice, come la figlia di una santa. Sì, perché la mamma è diventata vedova e aveva appunto dei figli, di cui Caterina era la seconda. Anche Caterina sposerà un pio svedese e poi diventerà vedova e a propria volta entrerà nella congregazione fondata dalla madre. Come la madre girerà in pellegrinaggio tutti i luoghi santi, in solo in terra santa, ma in Europa, e come la madre a Roma renderà la sua santità veramente indiscutibile. Sono le due figure di riferimento del cristianesimo svedese, stiamo parlando del 1300 per capirci, e sono veramente delle figure di riferimento. Tra gli altri santi di oggi però c'è uno dei 40, Sant'Alessandro, te lo ricordo, nel 303 martire a Cesarea sotto Diocleziano, sono 40. Il 26 agosto. Siete in 40 di Sant'Alessandro, un giorno dovrete fare l'assemblea dei Santi Alessandro, quando arrivi anche tu sopra diranno ancora un altro, ma insomma, detto tutto questo, cosa ricordare oggi? Ovviamente lo sapete, immagino, visto che quest'anno sono fiorite anche le polemiche per il sindaco Raggi, ma nel 1944, oggi, l'eccidio delle Fosse Ardeatine con i 335 fucilati dai nazisti per... Sì, diciamo, la Raggi non c'è perché il medico le ha detto 5 giorni di stacco, però ci sono le polemiche. Ecco, sono le polemiche, io devo dire la verità, adesso pensino quello che vogliono gli ascoltatori, e per i 5 Stelle, per i 5 Stelle, no. Comunque, Alberto Fosse, secondo me, una mamma che di questi tempi prenda il figlio e sta con il figlio 5 giorni, posso dire che non mi sembra. Ma poi, soprattutto, c'è un medico che ha detto ha bisogno di 5 giorni, ma non ci fermiamo, carità, di fronte a questo. So che la questo. Polemica politica non si ferma, come sai, di fronte a nulla. E del resto, oggi la Finocchiaro risponde sdegnata al fatto che se c'è un problema per Emiliano, la Procura Generale della Cisme ha aperto una cosa anche su di lei. lei perché ha la testa di partito. Il piccolo problema è che lì da 28 anni e lei è sdegnata. Fino a chiaro perché è sdegnata, perché vale per uno non deve valere per te, però questa è la politica. Adesso io non voglio dire oltre però alla giornata delle fosse ardeotine, tra l'altro oggi è anche la giornata mondiale contro la TBC, è la giornata internazionale per la verità sulle violazioni più gravi dei diritti umani, bla bla bla bla, e oltre a ricordare che nel 1999 Prodi diventava oggi Presidente della Commissione Europea, per me, posso dirlo, importante anche ricordare che nel 1973 usciva nel Regno Unito uno degli album di quelli che per me è punto di riferimento alla storia mondiale della musica, perché usciva, ne sentiamo l'attacco di un brano dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Questa è Money, che secondo me fa bene ogni tanto sentire su Radio 24, perché abbiamo sentito l'attacco alla terza strofa che dice Money, it's a crime! Il denaro è un crimine! Is the fruit of all evil today? E pensa che il resto della strofa dice sì sì sì, dividetelo pure equamente, però basta che non mi prendete un pezzo di quello che guadagno io, e soprattutto un crimine dice, è quello degli altri, esatto, insomma, e soprattutto dice beh sì, è la radice di ogni male oggi, e naturalmente se voi chiedete un aumento di stipendio, nessuna sorpresa, non ne avrete nessuno. Va bene. Oh, allora, qui stiamo diventando troppo musicali, no, perché tu prima poco musicale. Anche secondo me, però. Alle 8:27 minuti, allora, ovviamente di cosa parliamo? Certamente del dopo Londra, parleremo anche un po' dei magistrati, perché oggi avremo Donatella Ferranti che presiede per il PD la Commissione Giustizia alla Camera. Ma insomma, allora Oscar, che considerazioni si posso fare con i nostri ascoltatori all'800240024? Su questo Masud, Khalid Masud, 52 anni, padre di famiglia, è stato individuato, britannico, cittadino britannico, anche se pakistano di origine. Sì, andava in moschea, un po' di crimini qua e là nella sua vita. Sì, ma crimini ordinari, per così dire. Quindi non, cioè, vuol dire, sì, era conosciuto alle forze di polizia, però non è la classica figura di quello che ti aspetti, no? Che era considerata la zona grigia, quella zona grigia, non il fanatico che... e infatti sono poi quelli che colpiscono. Allora forse dovremmo abituarci. Perché però a un vedi mondo per esempio così. Per molti versi sì, dall'altra parte faccio un esempio. Oggi ho letto, mi ha colpito il solito simpaticone Ted Lutwak che al giornale lascia un'intervista, dice: inutile schedare i terroristi se poi si lascia in libertà, vanno seguiti come la loro ombra, arrestati, deportati, siamo in guerra. Allora, ma questo non era un presunto terrorista. Se ci fichiamo in testa e diamo da credere a chi ci ascolta o a chi ci legge che si può seguire come un'ombra tutti i Khalid Masud, cioè quelli che hanno dei precedenti solo per delitti ordinari di truffe eccetera eccetera, e siccome è vendere una cosa che non oppure, ha nessun fondamento, oppure dice non si può Lutwak, fare. Dobbiamo seguire tutti, perché forse non lo dice, tutti i musulmani che vanno in moschea, tutti, cioè cosa dobbiamo fare? Oppure dobbiamo fare come a Roma, dove stesso si prevede di vietare i camion nel centro, mettere i dissuasori, mettere... questo naturalmente solo perché c'è il vertice, ne arriva solo per quei giorni. Va bene, per quei ma giorni. Quello, secondo me le misure di Roma per vertici internazionali sono giustificate. Bene. Credere che noi possiamo fare come in una specie di stato orwelliano, di avere le risorse per chiunque va in moschea, lo seguiamo e vediamo cosa fa nella vita, questa io credo che non sia assolutamente forse, né possibile né un modello. Forse la chiave, ma vogliamo chiedere a Vittorio Emanuele Parsi, che è docente di relazione internazionale alla Cattolica di Milano. Buongiorno professor Parsi, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi agli ascoltatori. Forse l'intelligence è la chiave di tutto, almeno Federica Mogherini, oggi alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, dice quella è la chiave, lo dicono un po' tutti, anche Franco Roberti spesso da noi l'ha detto, l'intelligence coordinata tra stati, poi siamo però gelosi, l'intelligence non la coordiniamo. Ma forse è quello il modo per ridurre al minimo questi attacchi? Ma il ruolo dell'intelligence è importante a condizione che poi però non si mitizzi, come spesso capita, con la soluzione definitiva, l'arma finale. Il problema credo che sia nei confronti di personaggi come Masud sia quello della autoradicalizzazione, della radicalizzazione fai da te. Questo secondo me può essere combattuto però non tanto con l'intelligence ma anche con politiche che tagliano l'erba sotto i piedi a questi percorsi. Sono politiche che vanno nella direzione opposta di quelle che dice, di quelle che dice Edward, cioè, anche secondo me. Perché non è creando la Stasi, oltretutto Edward che è un anticomunista cronico oltre che storico. Cioè, dovrebbe saperlo, no? Dovrebbe saperlo, esatto. Cioè, non è che facendo spiare metà del paese dall'altra metà si va molto lontano. Sì. Quindi, però come si fa, come si fa a fermare uno che si autoradicalizza? Cioè uno immagina la scena dei film, uno che si mette la sera davanti a internet, inizia a leggere, inizia a studiare, inizia a convincersi che in qualche modo ha una missione, magari non ne parla con la moglie, non ne parla con i figli, e poi colpisce. Come si fa a individuare uno così? Quello lo si individua come hanno fatto gli inglesi, cioè lo si individua nel momento in cui colpisce. Ieri c'era un bruttissimo titolo sul Messaggero, il fallimento dell'intelligence, no? Era una sciocchezza, perché bravo. In realtà ieri abbiamo visto come il sistema di sicurezza inglese ha funzionato perfettamente. Nel momento in cui l'attentatore si è palesato, da quando si è palesato, quando è stato abbattuto, è passato un minuto, quindi vuol dire che c'è un sistema efficientissimo. È chiaro che questi tipi di soggetti non li puoi intercettare fino a quando non fanno qualche cosa che diventa notevole. Mm-hmm. Andare in moschea, anche guardare siti internet e quant'altro, non è un comportamento, innanzitutto non è un comportamento criminale, non è che possiamo mettere in galera tutti quelli che fanno cose che non ci piacciono, perché sai dove iniziano, sai dove finiscono. Ma quello che si deve fare invece in quel senso, per evitare che questi personaggi crescano, per così dire, e politiche di integrazione, questa è la realtà, sul piano interno, che non sono sufficienti, si va di bene, a evitare che chiunque non si radicalizzi, ma sono utili e opportune per restringere il numero di quelli che potrebbero radicalizzarsi, dai quali possono uscire i terroristi. Dobbiamo ridurre la base statistica, il campione statistico, per così dire. Non c'è molta alta su questo. Sulla le politiche di integrazione è interessante. Qui il dibattito l'abbiamo fatto anche tante volte, Oscar. Cioè capire se c'è in realtà uno zoccolo duro di persone, diciamolo, legate a quel tipo di religione, che ci odiano comunque a prescindere. Ma saranno sempre. Il problema è che devono essere meno. Cioè, il problema è che se noi facciamo quello che ha fatto il sindaco di Rotterdam quando Erdogan voleva mandargli il suo seminatore d'odio a far comizi, e che ha detto i musulmani olandesi e i turchi olandesi e la loro cultura politica non sono ostaggio del vostro dibattito politico inteso di odio e di autoritarismo, questo ha detto, quel tipo di messaggio è quello che serve, che la cultura politica dei nostri cittadini, concittadini di religione musulmana, la cultura politica è solo quella, esattamente omologa alla nostra, poi tutto il resto, scusate l'espressione, ma chi se ne frega sostanzialmente. L'importante è che sentano di appartenere a una comunità politica in cui i diritti, le lotte, gli obiettivi si possono fare e ottenere attraverso lo strumento della lotta politica e non della violenza, e quindi risultino alieni a proposte tipo quelle jihadiste. Dobbiamo trasformarli. Dobbiamo fare sì che abbiano nei confronti della jihad di questo tipo di messaggio lo stesso atteggiamento che un vegano ha nei confronti di una bistecca al sangue. Te lo dico senza nessuna simpatia per i vegani, però questo è il concetto. Certo. Insomma, questa è restringere il campo di quelli fanatici, che quelli purtroppo ci saranno sempre, ma restringerli nel numero. Detto questo, una sorta di inevitabilità che questo possa accadere, dobbiamo metterla in conto. Sì, però insomma, tornando alle passi, secondo me giustamente sottolinea l'importanza di una strategia di ingaggio pubblico delle comunità. Quando la frase del sindaco di Rotterdam, che ha colpito anche me e che condivido profondamente come giudizio, che ha dato parte sul fatto che quella è la strada da seguire, è una strategia che pubblicamente ingaggia la comunità. Insomma, in Olanda c'è un noto problema, no? Dai tempi di Pim Fortuyn e così via, eppure l'ingaggia pubblicamente sui valori comuni, fa loro sentire di interpretare e di voler interpretare anche valori comuni. Da noi in Italia il problema è vissuto all'opposto, nel senso che si dà spesso alle comunità dei musulmani l'idea che comunque loro sono un problema, non ci sono valori comuni, perché le campagne diventano no a qualunque cosa, mettiamoli sotto. Ecco, io non penso affatto dibattito, da una parte di dovermi stupire perché il dibattito pubblico italiano sia fatto così da anni, perché è ovvio che ciascuno ha la sua strategia politica pagante, per così dire, su questi temi, ma quello che immagino è che una comunità che non vede di solito il politico italiano tentare l'ingaggio pubblico parlando anche a nome dei suoi valori, beh, alla fine si sente isolata e vista come un problema anche da tutti gli elementi non radicalizzati e così via. E questo credo che sia, nel medio-lungo termine, un svantaggio che si traduce in guai. Quindi naturalmente è più facile dirlo per noi che siamo osservatori, il professor Parsi è uno scienziato sociale, piuttosto che per il politico che deve prendere i voti, ma però anche il politico si dovrebbe interrogare, non so come la pensa lei, Parsi. Sì, sono problemi in più se vuole, però, perché su questo bisogna essere molto schietti. Quando guardiamo gli olandesi, quando guardiamo gli inglesi, quando guardiamo i tedeschi, guardate il dibattito politico italiano di questa mattina, quando si può stare i musulmani, ma quando persone come Renzi e Grillo si insultano e si attaccano a vicenda come se fossero degli eversivi quelli che appartengono alle rispettive comunità dell'altro, ma dove vogliamo andare? Cioè, se noi non riusciamo ad avere un senso di identità politica condivisa tra quelli che si considerano italiani al 100%, siamo più deboli chiaramente anche nei confronti di quelli che sono. Guardi, Parsi, il più recente arrivo, un assist se vuole, arriva da un ascoltatore. Noi ci ascoltano un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, perché con lo streaming è facile. E ci scrive da Rotterdam un ascoltatore, dice: la popolazione musulmana qui è molto più numerosa di qualsiasi città italiana, ma nessuno si sente minacciato perché l'integrazione è la chiave. Aggiungo una cosa che oggi sui giornali comincia a essere sviluppata. Qui quando si parla, non so, sindaco musulmano, per noi sembra una questione. A Londra c'è un sindaco musulmano di origine pakistana, come di origine pakistana è l'attentatore di ieri. Però, infatti, Parsi, è finito subito nelle polemiche. È finito nelle polemiche, ma non mi sembra. Cosa succederebbe in Italia? Non so, Parsi. Inipotizzabile. Ma guarda, sarebbe impossibile. Noi abbiamo qualche deputato, no? Sì. Che però è deputato, sì, ma abbiamo deputato, come posso dirle, come lo stopper delle figurine della Panini, che ne stampavano poche. Cioè, nel senso, no, ma abbiamo questi parlamentari inchiodati a parlare solo di quello, non a ricoprire incarichi istituzionali a nome di tutti come il sindaco di Londra. Questo è il punto. Sai cosa sono i politici musulmani, come li trattiamo noi? Le guide indiane del film western di John Ford. Questo è il punto. Cioè, abbiamo il nostro Apache, l'Apache buono, ma questo è la retratezza totale del nostro dibattito. Ma ripeto, il dibattito politico-culturale italiano veramente che è primitivo in maniera imbarazzante, che produce poi per forza, di fronte a problemi che sono molto più complessi delle schermaglie tra Grillo e Renzi, evidente che a quel punto questo è incapace di affrontare la sfida. È come uno che guarda una parete di roccia e non sa neanche da che parte mettere le mani. Senta, io le faccio una domanda che viene da molti di quelli che mi seguono negli anni e mi chiedono sempre: come mai l'Italia, non è una domanda a tesi, però mi interessa la sua opinione, come mai l'Italia è praticamente totalmente assente da qualunque infografica che dimostri purtroppo la contabilità delle vittime e della serietà degli attentati in altri paesi europei? Delle due l'una: abbiamo gli apparati di sicurezza che tutto il mondo ci invidia? Ipotesi A. Ipotesi B. Abbiamo un comportamento concreto al di là del dichiarato nella nostra politica estera di difesa, di sicurezza e di intelligence, tale per cui chi di dovere, le reti dell'ISIS, eccetera, eccetera, insomma, ci considerano meno pericolosi e anzi spesso sul limite di una zona grigia non dichiarata. Qualcuno mi fa notare, se andiamo a vedere anche quelli dichiarati ieri, stamattina, quelli che grazie al via amministrativo Viminale stiamo rimpatriando dei radicalizzati islamici, quasi sempre vengono dai circuiti di moschee non ufficiali finanziate dagli emiratini, cosa completamente diversa dalle reti dell'ISIS e che, tradotto sullo scacchiere internazionale, è un favore fatto alla Russia e all'Iran, Iran, sia in Yemen sia sul campo siriano, piuttosto che un vero attacco alle reti terroristiche. Chi ha questa lettura, secondo lei, professor Parsi, si sbaglia del tutto? No, penso che in parte è vero, noi siamo poco presenti nella lotta, nella coalizione antiterrorismo, non colpiamo in Siria e in Iraq, questo ci fa essere non preferiti rispetto rispetto ad altri bersagli. Abbiamo una comunità islamica che comunque è molto più piccola, quindi la popolazione statistica è più bassa. Abbiamo poche seconde generazioni, quasi nessuna terza generazione, che sono quelle che si sentono più frustrate dal fallimento della promessa di integrazione, che c'è cioè, dal punto di vista economico-sociale anche in paesi più evoluti del nostro. E abbiamo poi l'altra faccia della medaglia, appunto, della nostra società, nel senso che noi siamo una società molto femminista, molto sfilacciata per certi aspetti, che però consente tante nicchie in cui tutti si possono un po' accoccolare, per così dire. Così come è debole purtroppo il senso di cittadinanza e la fierezza e il vantaggio, diciamo, che c'è ad appartenere pienamente alla comunità politica nazionale, però ci sono tante nicchie sotto nicchie in cui uno arriva, si sistema e se non dà fastidio in qualche modo trova il suo spazio. Noi non abbiamo banlieue, non abbiamo quartieri ghetto, cioè sono tante cose che la sfaccettatura ma anche la sfarinatura sociale italiana in qualche modo da me dà l'impressione di essere un loro o noi, anche a chi arriva. Sì. Tutti questi fatti messi insieme producono questo effetto. Dobbiamo però preoccuparci che nel momento in cui l'onda ci colpisce, quella fragilità si evidenzierà. Sì. Allora, noi ringraziamo Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Grazie per queste considerazioni anche un po' più profonde, insomma, delle questioni sole legate alla cronaca, legate proprio all'immediato, insomma, anche un'analisi un po' più approfondita ogni tanto fa bene. Andiamo un attimo in pubblicità, dopo ci sono tanti ascoltatori, anche un ospite, Donatella Ferranti, parliamo di giustizia in Italia, state con noi. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. 24 mattino. Attenti, allora, a noi due. Allora, Oscar, sì. Diamo spazio a Daniele Luciano. Siate brevi per cortesia. Daniele, buongiorno. Che il tempo fugge, il tempo vola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Brevissimo, sarò brevissimo. Grazie. Solo un secondo, io faccio il musicista di mestiere, sono un jazzista, mi capita quindi di suonare in giro sia per l'Italia, molto nell'Europa, e mi è capitato anche andare all'estero. Perché la mia domanda è perché dobbiamo necessariamente, perché dico questo? Dico questo perché ho potuto, come dire, conoscere varie culture, diciamo, da un punto di vista non proprio, come dire, così intenso, così interno, ma insomma da un punto di vista di chi, come dire, fa il musicista. E dico, perché dobbiamo necessariamente associare un fatto come quello che è successo a Londra a una matrice islamica, a un qualcosa che viene dietro ad una religione spinto da qualcosa? Non possiamo semplicemente parlare di un fuori di testa che ha fatto quello che ha fatto, tanto quanto ha fatto, sentivo prima al telegiornale, il signore prima uccidendo questo la ragazza. È il grande tema, Milano. Però per me è un la fuori risposta di testa. Daniele è che è dichiarata dall'autore che si era radicalizzato, è dichiarato in quanto tale come motivazione e aver raccolto l'appello che ha trovato sui siti dell'ISIS. E qui, siccome l'ISIS nasce con questo franchising libero senza cellule organizzate direttamente, certo che dobbiamo invece considerare. Per me è un fuori di testa che si era sicuramente che si era radicalizzato dal fanatismo islamico. E del resto ha paura di dirlo. È lo scatto, non è come la vecchia Al-Qaeda, cioè che c'aveva i nuclei, le emanazioni dirette con gli ordini sotto capi, un po' come la mafia. Questo è un appello al franchising libero dei radicalizzati e fuori di testa, sì, è così. Però è il terrorismo, è altro che solo è. C'è Luciano da Brescia, buongiorno. Volevo sostenere questa mia idea. Vorrei che prendesse piede in un certo qual senso un obbligo verso l'Islam ad autoreferenziarsi, a nominare dei propri esponenti riconosciuti e rappresentativi. Sappiamo infatti che ci sono molte correnti e vari tipi di Islam. Non hanno il Papa loro, no? Lì volevo arrivare. Ma no, non hanno rappresentanti autorevoli, come invece accade per le altre religioni cristiane. Luciano, è in atto da anni e comunque ai Comminiti c'è un'accelerazione in corso, ma di la verità c'era anche sotto il suo predecessore, per tentare l'unificazione delle rappresentanze delle associazioni che sono, c'è una specie di parlamentino delle diverse associazioni, sono troppe, ma c'è un referente ufficiale per queste e c'è un problema aperto la parte del governo italiano esattamente alla rappresentanza delle troppe, perché alcune come Lukoi poi sono anche un po' borderline. Sì, poi Oscar hanno una struttura, come dire, insitamente religiosamente diversa, che noi non possiamo cambiare. Insomma, se non hanno un papa e una struttura verticistica così, non è che possiamo, come dire, cambiare centinaia di anni di storia dell'Islam. Su no, no, ma infatti mancherà. Qui non si tratta di chiedere una rappresentanza della specie chiesa ufficiale, che come si sa non c'è l'equivalente della chiesa fondata da San Paolo nel cristianesimo. Però detto tutto questo, è un problema che esiste ed è chiaro, però ci sta tentando di lavorarci sopra il Viminale. Vogliamo però tornare, perché l'abbiamo fatto i giorni scorsi, a parlare di magistrati, carriere, politica. Lo facciamo con Donatella Ferranti, che è presidente per il Partito Democratico della Commissione Giustizia alla Camera. Buongiorno presidente Ferranti, grazie. Buongiorno. Noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, avevamo ospite Sabella a parlare di politica e magistratura. Per lei il problema come si pone? Cioè, sa che molti dicono chi fa politica la magistratura dovrebbe dimettersi. Ci sono casi come la collega Finocchiaro al Senato, che credo dall'88 sia in aspettativa. Le sembra giusto? No, soprattutto oggi definisci ipocrita l'iniziativa di chi gliene conto, dicendo che lei è una tessera di partito e allora, quando invece è esattamente una delle tipizzazioni, e lo sa benissimo la Finocchiaro, delle tipizzazioni disciplinari previste per i magistrati, la tessera di partito. Quindi non è che si può immaginare che lei non lo sa. Però lei definisce che è ipocrita chiederglielo. Che pensa lei? Ma io penso, cioè, dico quello che ho praticato e come ho inteso il mio ruolo. Io e come intendo il ruolo di un magistrato, che in base a un diritto che è garantito dalla Costituzione, perché dobbiamo partire da lì. L'articolo 51 della Costituzione, anche nelle varie interpretazioni che ha avuto più volte dalla Corte Costituzionale, garantisce non solo il diritto di voto, ma il diritto di eleggibilità assicurato a ciascun cittadino, e al tempo stesso garantisce la conservazione del posto di lavoro. Non ci sono eccezioni, anche la Costituzione non pone delle eccezioni su questo punto ai magistrati, mentre dice che la legge può però vietare ad alcune categorie, insieme ai magistrati, ambasciatori ed altre categorie, forze di polizia, l'iscrizione ai partiti politici. Questo è avvenuto nell'ordinamento Castelli, sì, con l'ordinamento Castelli, in cui hanno utilizzato solo per i magistrati ordinari, a cui faccio parte io, non quindi gli altri, degli illeciti disciplinari. L'illeciti disciplinare, che quindi va, dice sostanzialmente, è vietata l'iscrizione ai partiti politici, esatto, ma e soprattutto, questa è la cosa più importante, è vietata la sistematica partecipazione alla vita politica del partito, alla vita. Beh, non mi pare che la senatrice Finocchiaro abbia una partecipazione episodica. Resta il fatto, però, che lei fa finta che quell'illecito disciplinare non ci sia. No, però guardi, adesso io non sono il giudice della Finocchiaro, siamo qui anch'io, per però faccio come mestiere, trovo un politico magistrato che sa che c'è un illecito disciplinare. Ho capito, però adesso io non vorrei qui oggi parlare dei casi che ha sotto valutazione il consigliere della magistratura. Tanto siamo sotto rigore, che a noi magistrati, anche in aspettativa, si applicano le stesse regole disciplinari e deontologiche degli altri magistrati. Quindi io dico quello che penso, per come intendo che il ruolo sia realizzato, perché poi perché c'è questo divieto? Perché un conto è avere una partecipazione nelle istituzioni pubbliche e dare il proprio contributo, e le dirò poi che cosa è qual è il contrappeso. Un conto è partecipare attivamente alla vita di un partito, che è un'associazione privata, è un'associazione di diritto privato, non è un'istituzione pubblica, quindi è qualcosa di diverso. Ora sicuramente la senatrice Finocchiaro dirà un conto, a parte che queste norme sono state introdotte nel 2006, questo divieto, quindi lei, non so qual è la sua posizione, non ci voglio entrare. Nemmeno io, ma siamo nel 2017. Ma le dico quello che invece il problema non è questo. Il problema è se un magistrato possa, come altri cittadini che appartengono a funzioni pubbliche, essere candidabile, e a quali condizioni, sì, e se abbia il diritto che gli riconosce la Costituzione conservare il posto di lavoro. No, ma veramente, però, scusi, senatrice, la domanda non è questa, nessuno discute l'eleggibilità, tutti discutono se poi si può, finita la politica, tornare a fare il magistrato, come avviene. Ecco, questo è il punto vero. Uno. Due, se poi, oltre a fare politica, come lo fa lei per esempio nel Parlamento eccetera eccetera, ci si possa candidare a guidare un partito come Emiliano, o si possa essere come Finocchiaro un punto di riferimento della vita interna del partito da decenni, e sono altre cose, non l'elettorato passivo. In ogni caso, però, facciamo così, la reinvitiamo, è la promessa, Donatella Ferranti, per perché approfondire il tema, perché il tema è importante, e purtroppo il tempo è scaduto, sapete, in radio ci sono dei tempi precisissimi, quindi se Donatella Ferranti ce lo consente riapprofondiremo la questione, perché è un tema che poi appassiona gli italiani, no? Che intercettano nella giustizia politico, uno degli elementi fondamentali costitutivi del nostro paese e il buon funzionamento soprattutto della giustizia. Dai, ci fermiamo qui ringraziando Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè, e ci troviamo lunedì, anche se tu Oscar alle 16.30. Domani sabato, domani mattina, e naturalmente leggete Oggi Italia Oggi, Stefano Bartezzaghi colpaccio di l'anagramma, battuta l'anagramma del nuovo partito di Alfano che si chiama Alternativa Popolare. L'anagramma di Alternativa Popolare di Alfano è per la poltrona a vita, l'anagramma perfetto.